anche per l'Ottocento, credo, fare storia costituzionale chiusa dentro ai confini. Dall'altra parte, perché il nostro interesse per quella che ieri sera Mazzolini ha chiamato l'antropologia intellettuale è un interesse abbastanza di fondo e diffuso, anche se non nei termini così specialistici e diciamo mirati che egli ci ha un po' fatto intravedere ieri sera. Cioè, noi siamo molto interessati al problema della circolazione dei modelli e degli schemi di comprensione anche però di ingegneria costituzionale o istituzionale, e vogliamo quantomeno, ci siamo quantomeno posti il problema se si possa parlare per l'Italia della postunitaria, se si possa eventualmente parlare dell'esistenza di un modello tedesco, diciamo, ecco. Ora, questo naturalmente è stato affermato molte volte, soprattutto nell'ambito, diciamo così, della problematica giuridica, soprattutto giuspubblicistica, e anche nell'ambito della problematica connessa, diciamo così, economica, politico-economica, della scienza delle finanze e così via, e qualcuno di noi ha cominciato, insomma, a studiare questo problema, e quindi oggi avremo qualche piccolo risultato nella direzione. Mi piace che non sia presente per motivi suoi di salute, insomma, la dottoressa Ilaria Porciani di Firenze, perché il suo contributo sopra la biblioteca del Brugnalti sarebbe senz'altro stato un contributo importante, nel senso che forse quella è una delle sedi in cui meglio si può verificare questo tipo qui di circolazione di modelli, di schemi, di idee e così via. Tuttavia, nonostante questo, abbiamo senz'altro talmente tanto da fare anche oggi. Ecco. Io pregherei forse di già fin d'ora, sarei grato una cosa burocratica, perché cioè di sapere dal più almeno chi resterebbe questa sera, diciamo così, per il pranzo, ecco, in modo da poter fare un conto, perché purtroppo non ho ancora provveduto alla prenotazione, e io, essendo sabato ed essendo qui da solo praticamente in istituto, spero di riuscire a combinare qualche cosa all'ultimo momento, insomma, ma comunque, se per favore, quelli che resterebbero qui alzano la mano, quindi 1, 2 e 3, 4, per quello che riguarda la scena, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, una ventina. Per la cena, che però si deve sempre considerare che dure più verso le 10, insomma. Il treno è quello delle 10 e mezzo. 10 e mezzo. Perfetto. L'altro treno mi pare che sia dopo le 7, no? Sì. Per tutti gli altri, è giusto? Oppure se non lo dice. Perfetto. 0, 3. Quindi allora una ventina così. E allora siamo abbastanza a posto, mi pare che tutti hanno avuto questo modulo qui, che è quello per il rimborso. Chi non l'ha avuto, ne do a lui, poi me lo chiedete, insomma, compilatelo, ho bisogno che mi mandiate poi il biglietto, perché altrimenti non è possibile procedere al rimborso. Pregherei anche, nel limite del possibile, di attenersi a questa piccola notizia che è in basso a sinistra, che prevede la corresponsione di lire 500 pro capite per la marca da bollo, perché altrimenti 32 per 500 fa 16.000 che devo rimettere io direttamente in tasca. E quindi, dopo di questo, do la parola al professor Fioravanti, che ci parla di questo problema: stato di diritto e stato sociale, il metodo giuridico nelle discipline pubblicistiche. Non senza avvertire. Solo una domanda tecnica. Prego. Io sono studente qui, ho letto questa stampa che ci sarebbe parlato sulla Germania. Adesso chiedo, nel pomeriggio non ci sono anche relazioni? C'è un qui, guardi, qui c'è un se lei può gentilmente prenderlo, qui c'è un elenco di tutte le relazioni che ci sono oggi da stamattina fino a questa sera. La mia domanda è semplice: non ci sono relazioni sulla Germania più tardi, magari? O... Sì, queste di stamattina. Sì, queste stamattina sono tutte sulla Germania, no? Ho sentito che parlava in Italia del modello tedesco. Sì, tra l'altro, lì ci sono tutti gli elenchi, se lei può forse leggere e capire da lì che cosa succede. Quindi, stavo dicendo che cosa io? Stavi dando, ecco, la parola. Non senza però avere avvertito Fioravanti che ieri quasi, anzi tutti, sono rimasti dentro i 30 minuti. È un guaio. È un guaio. Prego. Dunque, in relazione subito... Sì, anche meno. Anche meno. Una serie di intimidazioni. Questo strano modo di dare la parola. No, ma sono stato allenato ieri sera da Schnur, che mi ha raccontato a tavola una serie di aneddoti su come le persone importanti in Germania riescono a far andare la discussione nei binari giusti, non so. E a sintetizzare. Scusami, grazie. Dunque, in relazione subito ai 30 minuti, dirò, ecco, che io cercherò di fornire una sintesi di storia del pensiero giuridico che in qualche modo riesca a coprire l'intero arco dell'Ottocento. Quindi non so se riuscirò a farlo nell'ambito dei 30 minuti, comunque ci provo. Da dove nasce questa esigenza di ripercorrere l'intero arco dell'Ottocento? Io mi occupo essenzialmente in questo momento di problemi di storia amministrativa e di storia della scienza giuridica relativi alla fine dell'Ottocento. Mi pare però di aver individuato un problema specifico, che è quello di in qualche modo risalire ai decenni, diciamo, di inizio del secolo XIX, nei quali a mio avviso si forma una determinata, diciamo in prima approssimazione, teoria costituzionale che in qualche modo determina poi un filo di continuità che corre fino alla fine del secolo. Io chiamo questo filo di continuità la teoria giuridica dello Stato. Credo cioè che vi è uno sforzo di elaborazione sul politico che ha una sua specifica connotazione giuridica e che determina una somma di convinzioni circa il ruolo del politico e segnatamente dello Stato e delle strutture amministrative che poi è di grande rilevanza nel far scattare una serie di meccanismi precisi anche di storia istituzionale alla fine dell'Ottocento. Quindi da qui, ripeto, il mio tornare indietro. Di questo volevo avvertire gli ascoltatori, perché poi in realtà la mia specializzazione è sulla fine dell'Ottocento, quindi probabilmente la genericità alla quale sono costretto sarà ancora più tale per il periodo di inizio del secolo XIX. Io ho intitolato con queste formule Stato di diritto e Stato sociale questo problema, ben sapendo che in realtà vi è ancora, nonostante che le formule siano adoperate ormai da lungo tempo, una grande genericità a questo riguardo. Cioè in realtà la storiografia e anche gli stessi operatori sia politici che giuridici si rifanno a questi concetti, in realtà non sapendo poi molto bene a quali concrete realtà amministrative e sociali si faccia riferimento parlando di Stato di diritto e di Stato sociale. Io ho cercato di scomporre questo problema individuando un filo conduttore che a me pare possa essere quello del rapporto tra diritto pubblico e diritto privato, o diciamo più genericamente tra livello pubblicistico e livello privatistico. E mi pare di poter misurare questo problema non tanto a livello, come ho fatto sinora, di diritto pubblico generale, diciamo, di allgemeine Staatslehre, cioè rispettivamente il problema della sovranità statuale e politica e il problema dello Stato limitato in direzione dell'autonomia dei privati, ma sul terreno che mi sembra estremamente più fertile e concreto dell'azione amministrativa. Il periodo in questione, che quello voglio dire che pongo più direttamente ad oggetto il mio discorso e che farei iniziare nell'ultimo ventennio del secolo XIX, è infatti non solo un periodo di grande espansione dello Stato, di sviluppo dei servizi sociali e di espansione dell'amministrazione, ma è anche, questo è in qualche modo, come vedremo, il rovescio della medaglia, il periodo nel quale lo Stato si confronta sempre più in concreto con quella che chiamerei la realtà economica dei privati. E non più solo, diciamo, con il dogma codicistico dell'autonomia dei privati. Sono due cose diverse queste. Cioè si pone un problema parallelamente allo sviluppo della pubblicizzazione e dell'espansione dei servizi sociali, si pone un problema che è quasi immediato, quasi contemporaneo e coevo, che è quello dell'applicazione del diritto privato agli stessi atti della pubblica amministrazione. E quasi subito, parallelamente, si assiste anche a quella che oggi gli storici dell'amministrazione chiamano una fuga dall'amministrazione centrale, cioè il formarsi di enti pubblici paralleli che poi sono la realtà che noi abbiamo di fronte, in qualche modo sottratti al primato del diritto pubblico amministrativo. Cioè, quando noi parliamo allora di Stato di diritto e Stato sociale, in realtà nel mettere in connessione queste due formule adoperiamo spesso criteri che rispetto a questa realtà della storia amministrativa sono criteri forse vecchi e inadeguati. Per esempio, si sottolinea il fatto che la formula Stato di diritto sia funzionale all'espansione dello Stato sociale, cioè rappresenti un'esigenza di calcolo degli atti amministrativi, quindi di certezza e di stabilità dell'apparato nel momento nel quale l'apparato si espande in direzione della società. Oppure, come pensavano i liberali italiani, ad esempio Orlando, alla fine del secolo scorso, che lo Stato sociale sia in qualche modo un completamento dello Stato di diritto, cioè lo Stato di diritto che rimane identico a se stesso ed accresce però il versante dell'attività sociale. Ecco, io credo che questi tentativi di comporre le due formule si vadano rivelando nella nostra realtà e nella realtà che è seguita, diciamo, alla fine dell'Ottocento, sempre più problematici. Questa mi pare la questione di fondo. Mi pare cioè che il nostro problema è quello di un continuo e incessante bisogno di pubblicizzazione che però tanto più si espande e tanto più è costretto a fare i conti con quella che chiamavo la realtà economica dei privati, cioè la logica privatistica del profitto e dell'impresa in definitiva. E sul rovescio della medaglia noi abbiamo un sempre più forte bisogno dell'entità politica di acquisire energie economiche, cioè di contrattare, da adoperare lo strumento del privatistico del contratto. E quindi di conseguenza di mettere in qualche modo in discussione la purezza tramandata, direi, degli strumenti giuridici pubblicistici. E in qualche modo ancora rinfocolando continuamente la tentazione di restaurare anche questa unità perduta del diritto pubblico amministrativo. Cioè viviamo in una tensione continua di spinta e controspinta tra questi due poli del diritto pubblico e del diritto privato. Anche mi pare le proposte che noi oggi abbiamo di fronte di riforma istituzionale sono quasi tutte ascrivibili. Questi due poli della restaurazione in fondo della dimensione del contratto o della dimensione del diritto pubblico, che io chiamo del diritto pubblico amministrativo. Cioè da una parte, e questo mi pare significativo perché ripete un vecchio schema storico, da una parte, dalla parte cioè della restaurazione del polo del contratto, noi troviamo gli amministrativisti veri, cioè per esempio in Italia la scuola di Massimo Severo Giannini, cioè troviamo gli operatori che in qualche modo spingono in questa direzione perché vedono una semplificazione dei servizi sociali. Dall'altra parte noi troviamo diciamo gli scienziati della politica a forte contenuto giuridico e troviamo essenzialmente, mi pare, questa io chiamo la restaurazione del primato del diritto pubblico amministrativo, le recenti proposte del professor Miglio. Attorno a questi due poli, ecco, io mi domando se non si tratti di proposte che in qualche modo sono semplificatrici dei nostri problemi, cioè voglio dire di proposte che rifiutano questo dato fondamentale che in realtà noi viviamo ormai da un secolo dentro questa tensione. No, che questa tensione, voglio dire, ha certamente aspetti drammatici, ma che probabilmente questa tensione si è ormai solidificata in un altro modello, del quale noi probabilmente non conosciamo i dati fondamentali perché continuiamo a sfuggire alla realtà di questo modello e a ricercare in qualche modo le soluzioni estreme e le soluzioni che restaurino la chiarezza del modello attorno a uno dei due poli, quello del contratto e quello dell'autorità pubblicistica dello Stato. Ma questi sono problemi che io pongo a livello di premessa del mio discorso. Dicevo l'esigenza brevemente di risalire all'inizio del secolo, perché? Ecco, io credo che quando i giuristi alla fine dell'Ottocento compiono una serie di operazioni a proposito di pubblica amministrazione, diciamo, adoperano determinati, diciamo meglio, muovono da determinate convinzioni, da determinate, direi, idealità, da una determinata cultura politico-costituzionale che sta alle loro spalle e che non è affatto improvvisata, ma è frutto di una lunga tradizione, addirittura direi di una lunghissima tradizione per ciò che riguarda le radici dell'esperienza moderna, ma di una lunga tradizione per ciò che riguarda l'intero corso dell'Ottocento. Ecco, io ho l'impressione che di questo noi conosciamo poco, cioè che vi sia, cioè un terreno sul quale lavorare, che sia un terreno comune tra i giuristi e quindi, diciamo, tra gli storici che sono in grado di comprendere a fondo il valore tecnico delle operazioni che vengono condotte, e tra gli storici della filosofia, delle dottrine politiche, che possono mettere in luce determinati aspetti di questa cultura sottesa alle operazioni dei giuristi. Mi pare che recenti scritti in Germania confermino questo. Mi pare si possa risalire ad un momento iniziale, che qui non preciso in modo più analitico, dell'inizio del secolo, nel quale si ha, soprattutto in Germania, un distacco crescente dall'ipotesi giusnaturalistica, soprattutto dal giusnaturalismo di stampo contrattualistico e di stampo individualistico. C'è cioè in reazione agli eventi rivoluzionari la ricerca di una stabilità costituzionale che conduce a pensare lo Stato quale soggetto dotato di Selbstzweck, cioè è difficile da tradurre, io ho tradotto in modo molto giuridicizzato, capace di autolegittimazione. Qual è l'obiettivo polemico in questa fase? Non è solo quello della sovranità popolare, no? Non è solo quello del primato del legislatore, però questo problema c'era. Ecco, io vorrei dire anche rispetto alle cose che ieri diceva Meriggi, sulle quali concordo in parte, però questo problema c'era, rimane, questo problema che ruolo dare al popolo nell'assetto costituzionale. Ma non è solo questo, c'è anche un timore dello svilupparsi degli eventi rivoluzionari, nel senso che più preme forse ai giuristi, e che è quello della presunzione in qualche modo rivoluzionaria di poter dominare tutta quanta la società dall'alto, cioè è la polemica contro il codice e contro l'amministrazione centralizzata. Questa duplicità del versante della polemica mi sembra importante, cioè non c'è solo lo sforzo di mantenere ferma l'autonomia dei livelli istituzionali e politici, ma c'è anche lo sforzo, in qualche modo il rovescio della medaglia, di salvare la natura storica, vorrei dire quasi intima, della Costituzione sociale dall'arbitrio del potere politico. Ecco, cioè c'è una ricerca di autonomia del sociale che è però di tipo diverso dall'autonomia che si ricercava per la via del giusnaturalismo di stampo contrattualista e individualista, cioè a fondamento storicistico. Io qui pongo un punto d'avvio che interessa da vicino, mi pare, la cultura giuridica. Ciò che spesso in questa fase si chiama naturale e necessario non ha niente a che fare col giusnaturalismo di stampo contrattualistico, è un diritto naturale ormai completamente diverso, che ha una funzione politica completamente diversa, e nel quale io vedo il nucleo del giuridico. Questo per me è il punto fondamentale. Questo naturale e necessario Io vedo il nucleo del giuridico, è un'espressione questa naturale e necessaria che poi ricorrerà fin dentro il cuore del Novecento per il tramite dei giuristi. Mi pare che attorno a questo naturale e necessario si vadano anche incontrando, questo è il secondo punto che io fisserei, il pensiero politico conservatore e quello liberal costituzionale. Cioè si crea un terreno d'incontro e ogni opzione di carattere liberal costituzionale può in un qualsiasi momento, in una qualsiasi contingenza, assumere un significato conservatore. Cioè chi difende, ad esempio, in modo più marcato i diritti individuali, in ogni attimo la sua rivendicazione può trasformarsi in difesa degli equilibri storici della collettività. Però vale anche l'inverso, e questo è forse ancora più interessante. Cioè vale il fatto, io penso a Stahl qui, alla sua recezione presso il movimento liberale per il tramite dei giuristi, cioè i conservatori ossessionati da questo problema di individuare i momenti di autonomia delle istituzioni di fronte alla società, in realtà promuovono una giuridificazione del potere politico attorno al principio monarchico, che avrà poi una grande importanza anche per la teoria dello Stato di diritto e per il pensiero politico liberale. Cioè si forma attorno a questa confluenza tra pensiero politico conservatore e liberale costituzionale il nucleo del Rechtsstaat, della teoria che noi chiamiamo dello Stato di diritto, della quale noi oggi, questo è il punto che volevo mettere in rilievo, abbiamo la coda, no? Cioè il problema dei limiti, delle libertà individuali. Però a me interessa il problema Stato di diritto nella sua complessità costituzionale, nella sua globalità costituzionale, della quale il problema limiti verso i diritti individuali è solo un aspetto. Però si tratta di riscoprire tutto il corpo, diciamo, al quale questa coda si è attaccata, che è un corpo che noi tutto sommato non conosciamo. Su quale terreno si incontrano questo pensiero politico liberale e conservatore? Ecco, io credo che una formula, per questo ieri intervenne sulla relazione di Mazzolini, ecco, la formula più ricorrente è quella, in qualche modo, diciamo, dello Stato organico. Io adopero l'espressione Stato organico perché poi l'adopereranno molto i liberali e i conservatori italiani, ma dico, il problema è l'uso politico della parola organismo, riferito al politico, no? Questo ha prima di tutto un senso anticontrattualistico, cioè è un modo, diciamo, di porre il problema Stato-società secondo una forte sottolineatura di tipo storicistico. Però il problema, come ha detto recentemente Stolla, e se mi dispiace non sia potuto venire, che esistono, lui dice molto bene, Mischungsverhältnisse, cioè esistono una serie di sfumature che vanno da posizioni più radicalmente liberali a posizioni più radicalmente conservatrici, ma che sono contenute, tutta questa serie di sfumature, entro un terreno comune, che in qualche modo è quello dello Stato organismo. Questo vorrei sottolinearlo. Però esiste una funzione costituzionale precisa di questo concetto dell'organismo, cioè consente un'operazione di limitazione delle prerogative regie, perché si colloca il sovrano all'interno dell'organismo costituzionale, salvando però integralmente la prerogativa regia come cuore della Costituzione. Dicevano meglio loro la spitz della Costituzione. In realtà poi dal punto di vista, apro una brevissima parentesi, della metafora dei problemi dei quali parlavamo prima, dell'analogia ieri, ecco, in realtà qui c'è dietro la questione che sollevò De Sanctis della vita, cioè l'organismo in quanto organismo non può non avere un nucleo vitale, un punto nel quale la vita si condensa e si esprime e che in qualche modo rappresenta tutto l'organismo. Questa è anche la grande differenza con il meccanismo, e diciamo il sovrano è questo punto. Ma il concetto, dal punto di vista politico, consente di mettere assieme appunto il versante liberale, che vede la limitazione, diciamo, dei poteri del monarca, con il versante conservatore, che vede la riaffermazione dei poteri del monarca, nel senso che esso non è ridotto alla dimensione di organo dello Stato. Questo è il punto fondamentale. Ma lo rappresenta tutto. Questo non si specializza come gli altri, potremmo dire. Anche se poi il concetto di organo avrà una storia che lo porta a non essere più questo. Dunque, riassumiamo. Io credo, per brevità, io credo che quindi si formi in questo periodo, attorno a questi problemi di fondo, una teoria costituzionale. Quindi diciamo dal 1789, assunto in modo emblematico la data della rivoluzione, fino al 48. Ora, perché pongo questo problema? Perché in realtà ormai la storiografia ha accertato che questa grande corsa verso il diritto positivo, no, che poi è il mio problema di giurista, inizia all'incirca dopo il 1848, in quel momento nel quale si parla di rassegnazione, di disillusione del movimento liberale, eccetera. Io leggo anche da più parti che in realtà la questione amministrativa diviene importante, diciamo, come frutto di ripiegamento rispetto alla questione costituzionale. Cioè la disillusione del movimento liberale pone la questione amministrativa al primo posto rispetto a quella liberale. Ecco, io credo questo schema, fermo restando l'esistenza di questa grande sconfitta, no? Però questo schema debba essere in qualche modo rivisto. Io credo che più che un ripiegamento, e questo è veramente il punto delicato, esista piuttosto la scelta positiva del movimento nazional-liberale per un determinato modello costituzionale, che è cosa diversa, a mio avviso, dal ripiegamento. Cioè, esiste il tentativo di prorogare le convinzioni politiche della prima metà del secolo, di rendere concreta la teoria costituzionale che si era affermata nella prima metà del secolo. Si potrebbe dire tutto questo con una formula molto sintetica, ecco, che io adopero proprio in via di sintesi e me ne scuso per la sua genericità, ma ci possiamo discutere sopra, voglio dire. Credo che sotto questo profilo quello che noi chiamiamo Stato di diritto, riferito alla seconda metà del secolo XIX o alla sua fine, ecco, sia in buona misura figlio di questo stato giuridico, inteso come stato organico, della prima metà del secolo, scaturito cioè dalla Wendung post-rivoluzionaria in Germania. Dunque, al problema amministrazione, che diventi centrale, su questo sono d'accordo, no? Quello diceva Meriggi sulla centralità della questione amministrativa. Ecco, a questo si giunge non come ci tramandano i manuali giuridici per un'astratta volontà di completamento dello Stato di diritto, per esempio tutto il problema giustizia amministrativa, no? Pensato in questa direzione, ma perché nella burocrazia, quello che Laband chiamava lo Staatsoberhaupt, lì si individua il giuridico, cioè il punto focale, la spitze della Costituzione. Questo è il problema, non c'è uno slittamento verso l'amministrazione, c'è la realizzazione di un modello che è un modello amministrativo, è una cosa diversa. Ecco, a questo io collego varie conseguenze, diciamo. Una prima è quella che a me pare rimanga nella sua integrità come valutazione di fondo, e cioè è esistito su questa base una fase che noi possiamo chiamare fase classica dello Stato di diritto, no? Secondo la terminologia di Ernst Forsthoff, e cioè un'amministrazione dominata dai giuristi. Ecco la realizzazione del giuridico poi in concreto nell'amministrazione. Che funzione ha svolto? È una fase nella quale lo Stato incrementa la sua azione nella società, ma ciò nonostante riesce a mantenere fermo il proprio carattere di complessivo, di soggetto giuridico. cioè trova dei criteri di azione che sono lontani dalla cultura politica, che è la cultura del programma, dell'organizzazione, delle riforme. Ecco, c'è una via diversa di costruzione dell'espansione dello Stato e della società che è integralmente giuridica e si contrappone all'altra. L'amministrazione è determinante in questa linea, lo ripeto ancora una volta, perché in essa è ravvisato il momento della stabilità e della costanza. In opposizione alla mutevolezza e all'arbitrio della politica, cioè rimane questa antitesi di fondo che si determina all'inizio del secolo, giuridico come organico, graduale, continuo, armonico, qui ci potremmo divertire molto, politico come meccanico, mutevole, arbitrario, conflittuale. Allora, quando si parla della restrizione dell'ottica dei giuristi alla fine del secolo scorso, io credo che questo abbia un significato preciso. È il tentativo di svincolare la burocrazia dello Stato dalla nascente Leistungsverwaltung, cioè di mantenere fermo quello che all'inizio chiamavo il Selbstzweck, la capacità di autolegittimazione, evitare che questo scopo autonomo si frammenti nella pluralità degli scopi sociali, che è caratteristica della Leistungsverwaltung. Ma questo pone un grande problema, che è quello dell'atteggiamento dei giuristi di fronte a questi fenomeni di modernizzazione della fine del secolo scorso. È un atteggiamento che io ritengo, chiamo in modo semplicistico, ma credo efficace, difensivo. Cioè, questi giuristi, e questo è chiarissimo il Volstorff, si sentono in qualche modo accerchiati da fenomeni a loro estranei, per loro in una certa parte indefinibili, e in quanto indefinibili da esorcizzare più che da comprendere. E questo atteggiamento cresce tanto più quanto cresce la dimensione aliena rispetto a quella dei giuristi, che è quella dello Stato imprenditore. Quanto più cresce, cioè, il tasso di applicazione del diritto privato agli atti della pubblica amministrazione. Questo poi in termini giuridici, ma voglio dire, è tutto da approfondire sui singoli istituti, diventano problemi molto concreti questi, perché diventano i problemi dei beni pubblici, e diventano i problemi dei poteri disciplinari della pubblica amministrazione e via dicendo. Quando parlo di questa burocrazia, ancora per capirci meglio di cosa parliamo, io intendo la burocrazia contro la quale polemizza, per dare un riferimento, no, anche Max Weber negli scritti politici degli anni della guerra. Cioè, credo quello rimanga un grosso punto di riferimento. Cioè, lì il problema è quello del modello tedesco che sta cadendo, no? Che ha avviato un processo di dissoluzione. E Weber indica in questo nucleo fondamentale, che io chiamo il nucleo del giuridico, dell'amministrativo, il nucleo responsabile di questo affossamento, cioè il fatto che si è determinata in Germania una classe politica puramente amministrativa, che ha impedito, sulla base di un meccanismo costituzionale preciso, tra parentesi, che era l'articolo 9, che impediva il transito tra i due grandi organi costituzionali, va bene? Ecco, sulla base di questo ha impedito, come lui dice, ai capi, cioè a coloro che sono espressi dalle lotte politiche, di accedere ai posti di responsabilità nello Stato. C'è un passo molto bello per noi giuristi nel quale lui si scaglia contro i professori di diritto e dice perlomeno questi giuristi fossero avvocati, cioè sarebbero più abituati alla dimensione della lotta, del confronto. Ma sono giuristi e non so neppure questo. Ecco. E questo è in fondo il succo di questa, che poi noi chiamiamo la Entpolitisierung, no? alla quale io mi riferisco. Un'ultima sottolineatura da questo punto di vista generale. Quando noi diciamo l'applicazione del metodo giuridico all'interno del diritto pubblico, non ha solo per me questa funzione di isolare il nucleo della burocrazia, che è evidentemente la prima funzione che attribuisco a questo metodo giuridico, ne ha una seconda, che è comprensibile più dall'interno della storia della scienza giuridica. Cioè, in realtà, quando questi giuristi affermano di voler riunificare, secondo determinati punti di vista astratti, la materia amministrativa, cioè vari complessi di norme, di principi, di istituti, in realtà pensano che sia superabile la eterogeneità dei materiali di provenienza, perché i materiali di provenienza, non ci scordiamo, sono norme penalistiche, processualistiche, privatistiche, eccetera. Però quello si sostiene quando queste norme vengono attratte nell'ambito della pubblica amministrazione, il complesso diventa pubblicistico. Allora, quale valutazione possiamo dare di questo? Che sotto l'operazione di applicazione del metodo giuridico al diritto amministrativo non c'è solo il problema del limite, della calcolabilità, ma c'è la scoperta di un diritto proprio della pubblica amministrazione. Questo mi sembra fondamentale. Cioè la specificità del soggetto giuridico pubblica amministrazione. Il fatto che la pubblica amministrazione è un soggetto giuridico dotato di particolari attribuzioni. È quello che Otto Mayer chiamerà il rechtlicher Mehrwert, il plusvalore giuridico della pubblica amministrazione. Allora, questa seconda grande funzione costituzionale è quella, in sostanza, di aver rilanciato per questa via scientifica il problema della sovranità statuale, alla fine dell'Ottocento, in un momento di grande crisi, e di averla incarnata direttamente nel diritto della pubblica amministrazione. E dunque il cuore è questo della superiorità, specificità della pubblica amministrazione come soggetto giuridico. Non è un caso poi che tutte le elaborazioni dei giuristi finiscano in questo problema del rapporto giuridico Stato-cittadino, no? Cioè quella che alcuni giuristi hanno chiamato la scomparsa della società dall'interesse dei giuristi, perché dentro quel rapporto è già contenuto tutto, la sovranità, il limite alla sovranità, eccetera. Su questo poi eventualmente torneremo in seguito, nel corso del dibattito, voglio dire. Sono vicino a finire. No, va benissimo. Va benissimo? C'è ancora Otto Mayer. Sintetizziamo, perché Otto Mayer ormai sappiamo tutto. Esatto. Dunque. Bene, sintetizziamo. No. Vabbè, finiamo allora. Più che sintetizziamo, finiamo. È compatto il discorso. Benissimo. Allora, applichiamolo su Mayer. Ecco, diciamo questo. Perfetto. Applichiamolo su Mayer. Su Mayer, devo dire, sono usciti molti libri ultimamente in Germania. A me è piaciuto soprattutto un libro, che è quello di Alfons Huber, Otto Mayer, die juristische Methode in Verwaltungsrecht, Berlino 1982. Huber. È un allievo di Stolla. È una dissertazione. Allora, per due motivi fondamentali. Per il primo, e cosa che a me convince molto, Otto Mayer viene qui misurato nella grande distanza che lo separa da tutta la scuola di Labant. Questo mi pare fondamentale, veramente. Cioè, da tutta la tradizione dello Staatsrecht, dell'Allgemeine Staatslehre. Cioè, in questo gradino che lui salta, che è il gradino della autonomizzazione della scienza del diritto amministrativo, è contenuto un grosso problema, no? Che lo rende in qualche modo eterogeneo. Qui a me soprattutto è piaciuto molto il suo scritto contro il dogma della personalità giuridica dello Stato, che è il fondamento di tutta quell'elaborazione scientifica, e che lo sarà anche in Italia, soprattutto con Orlando, e la sua polemica contro i Deutsche Professore, no? Che avevano inventato questa personalità giuridica dello Stato. Il secondo punto, cioè aver messo in rilievo come Mayer sia un giurista che veramente muove da alcune idee guida, che sono idee che hanno un contenuto storico-politico dichiarato. Sono le idee L'idea moderna di Stato, che per semplicità chiamerò Stato moderno, è Stato di diritto, ovviamente. Poi vedremo, si porrà anche un conflitto tra queste, un compromesso, una soluzione di omogeneizzazione. Il dato di partenza in Ottomayr, secondo me, è quello dell'idea moderna di Stato, cioè quello è il punto di partenza. Diciamo genericamente lo Stato come soggetto politico dotato di sovranità, quindi di Rechtlicher Mehrwert, di nuovo, nei confronti dei cittadini sudditi, Untertanen. Da qui deriva una prima convinzione, cioè esiste una specificità del diritto pubblico che i giuristi non hanno ancora scoperto. Cioè, a me quello che ha colpito è il fatto che la sua polemica, più che essere diretta contro il metodo Staatswissenschaftliche di Stein, e c'è però questa polemica, no? C'è, in realtà è diretta soprattutto contro quello che Mayr avrebbe potuto definire e che io chiamo il pancivilismo della scienza giuridica tedesca. Esiste un'esigenza di emancipare il diritto privato dal diritto pubblico, che è un'esigenza molto forte alla fine dell'Ottocento. Qui c'è dietro il grande problema sul quale non mi soffermo, dello Stato fiscus, della permanenza dell'idea dello Stato fiscus come persona di diritto privato separata dalla personalità politica dello Stato. Cioè il problema è quello della loro riunificazione. Non esiste momento nel quale lo Stato non sia mai integralmente tale. Questo è il problema fondamentale, che naturalmente poi dal punto di vista giuridico è fondamentale, perché il problema è l'applicazione degli atti del diritto privato agli atti della pubblica amministrazione, che in questa linea si restringe paurosamente, no? Io credo l'equivalente in Italia di Ottomayr sia, da questo punto di vista, Santi Romano, che è il nostro pubblicizzatore più forse esasperato, insieme a Oreste Lanelletti. Non è considerato tale per questa storia del pluralismo giuridico, sulla quale forse poi si può discutere, ma in realtà il vero Santi Romano è quello degli scritti di diritto amministrativo ed è il più ferreo pubblicizzatore che in Italia noi abbiamo del livello di Ottomayr. Dunque, il primo punto da segnare è che questo metodo giuridico è la tecnica di emancipazione del diritto pubblico dal diritto privato ed è, negli schemi di Mayr, logicamente anteriore al problema Stato di diritto. Questo è fondamentale. Cioè, prima è quella cosa e poi è il problema di mediare con la formula Stato di diritto. Allora, tutta la sua opera fondamentale, io ho ritenuto perlomeno ad averla letta in questo senso, il Deutsches Verwaltungsrecht, 1895, è animato certo dal problema di ridurre il diritto amministrativo a forme costanti, e nel momento nel quale si propone questo, si propone evidentemente anche un problema di razionalizzazione nel senso di limite. Però in realtà l'impianto di fondo è diretto a costruire nuovi concetti giuridici, diversi da quelli privatistici. Una teoria, come vedremo, dell'atto amministrativo autonomo, self-standing. Un Sachenrecht pubblicistico, importantissimo, cioè un diritto pubblico patrimoniale. Una giurisdizione amministrativa autonoma, un diritto comune degli enti pubblici, un Polizeirecht, riferito soprattutto ai beni pubblici, e poi il problema è la supremazia speciale in alcune zone dell'attività della pubblica amministrazione. Ecco, si potrebbe forse parlare a questo proposito, poi dirò in che senso, dell'esistenza di un compromesso tra queste due esigenze, tra l'esigenza Stato di diritto e l'esigenza, diciamo, del diritto pubblico amministrativo, che è lo stesso al quale mi riferivo nella premessa a questa relazione. Io credo, segniamo questo, vi è la consapevolezza che questi possono essere valori divergenti da mediare e da porre in un rapporto esplicito di compromesso. Questo è molto importante. Cioè non c'è stata nell'età moderna, contemporanea, diciamo, per Mayr alcuna scoperta della natura giuridica del potere politico, che è ciò che invece credevano Gerber, soprattutto Jellinek. Questa è la grande differenza. Bisogna invece, come dire, rimboccarsi le maniche, ecco la via del diritto amministrativo, per costruire una mediazione tra questi due complessi di valori sugli istituti giuridici. E da qui poi il crescente primato del diritto amministrativo rispetto alla dottrina generale dello Stato, per quanto essa giuridica anch'essa fosse. Credo anche, come ha detto appunto l'autore di questo saggio che sto prendendo in esame, che questo atto amministrativo autonomo, in realtà, questo trovo molto bello, si sviluppa, dice l'autore del saggio, im Differenzbereich zwischen Eingriff und Einwirkung, cioè si sviluppa nel campo differenziale tra l'Eingriff, che i liberali italiani chiameranno l'ingerenza, no? Il che suppone l'esistenza di due corpi distinti, Stato-società, Stato-l'ingerenza, no? Stato-cittadino, eh? E invece l'Einwirkung, che è l'influsso, è una roba diversa, e suppone invece un programma di organizzazione, l'influsso. E, ecco, questo atto amministrativo autonomo va a collocarsi al di là del mero Eingriff e mira verso la piena Einwirkung. Direi così, no? È il campo che nella giustizia amministrativa, ad esempio, si chiamerà il campo degli interessi. Cioè sono quelle situazioni nelle quali non si può più parlare con lo schema giuridico classico del diritto soggettivo, che è rigido per sua natura, perché ha dietro tutta la storia privatistica. Allora, per concludere definitivamente questa volta, anch'io credo effettivamente nell'esistenza di questa vena realistica del pensiero di Mayer, della quale tutti parlano, per aver lui visto queste tensioni dentro il diritto amministrativo contemporaneo. Però qual è il problema? Il problema è che queste tensioni non rimangono aperte, cioè c'è un rifiuto da parte di Mayer di accettare questo dato di fondo che l'amministrazione contemporanea vive di un dualismo conflittuale permanente fra due complessi di valori. Questo è fondamentale. E invece si ricerca l'unità organica del diritto amministrativo, in qualche misura. Cioè ogni istituto giuridico deve soddisfare contemporaneamente a tutte e due le esigenze di fondo. E nell'istituto giuridico, quindi, entrambi i valori si realizzano. Ecco, si realizzano. Che cosa è accaduto allora semplicemente? È accaduto che nel dopo Mayer, voglio dire, che i giuristi contemporanei hanno preso la coda di tutto il suo lavoro. Ecco, questo sarebbe da studiare come, no? Attraverso, voglio dire, Walter Jellinek, Fritz Fleiner e tutti gli amministrativisti. Anche italiani, no? Ripeto, anche Santi Romano, Ranelletti, Orlando, eccetera. Ma hanno preso la coda, cioè questo aspetto della compattezza dogmatica, questo aspetto della soluzione globale. Mentre sono scomparsi, è scomparso il problema del dualismo tra i valori, tra gli interessi di fondo. E allora questa lettura giuridica è divenuta sempre più, ecco l'aspetto difensivo dal quale ero partito, l'argine, no? Cioè il segno della certezza e della stabilità, al quale era necessario aggrapparsi per evitare la dissoluzione dell'intero sistema. Così abbiamo una perdita progressiva di capacità della scienza giuridica di aggredire nuovi problemi dello Stato sociale. Lo Stato sociale diventa una flebile riproblematizzazione del vecchio Stato di diritto. Non solo, ma c'è un problema ulteriore, su questo chiudo, che è quello che ho scritto nella letterina introduttiva delle responsabilità dei giuristi. È un discorso che oggi non pongo, però voglio dire, i giuristi hanno finito per coltivare in questo modo una logica, che è una logica sempre più densa, sempre più forte, no? All'interno di uno spazio istituzionale che è sempre più ristretto, perché è sempre più eroso dai nuovi fenomeni. Ecco, e di lì probabilmente sono partite cose piuttosto violente. Ecco, questo non vuol stabilire alcun nesso di continuità tra il pensiero liberale giuridico e poi quelle saranno le soluzioni dello Stato, diciamo, globale. Però noi dobbiamo meditare anche sull'esistenza di questo liberalismo giuridico proprio in Italia e in Germania e sulla funzione in questo senso può aver svolto proprio in questi due paesi. Molte grazie. Domande molto specifiche, solo molto specifiche, di chiarimento, perché la discussione si fa dopo, su tre relazioni insieme. Vorrei sapere solo il termine self-track a partire da quando si trova. Beh, ora non saprei dirti sul piano filologico, ma... bellezze dell'interdisciplinarità. Non saprei dirti, ma si trova a partire dal primo decennio dell'Ottocento. Io credo.